Le 11 e 25 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, chiudiamo la rassegna stampa odierna con quest'ultima pagina del Fatto Quotidiano che commentiamo rapidamente. Il titolo, lo dicevamo, è Le 10 rivoluzioni di Bergoglio, stile Francesco, dal buonasera pronunciato dal balcone appena eletto a tutti i cambiamenti quotidiani, parole e opere del pontefice latino a cura di Carlo Tecce. Dunque, partiamo dalla prima. Sono solo 10 rivoluzioni. Solo 10. Ah, peccato. Che comunque sono più di una. Sì, è vero, è vero. Allora, prima, lotta agli eccessi del clero, a Santa Maria 90 metri quadrati. E vabbè, lì c'è Bertone. Ci chiamano. Vabbè. Un papa che ha scelto Francesco per nome ha indicato un'esistenza francescana per il Vaticano, che ha scelto Francesco come nome, insomma, ha scelto un'esistenza francescana. Vuoi rispondere? Niente berline di lusso, niente gioielli, Bergoglio indossa una croce di ferro, questo appunto l'abbiamo, insomma, se ne è parlato molto di questa sua scelta, che sicuramente ha delle chiare, come si dice, ricadute generali, scegliere la croce di ferro anziché quella di oro, ovviamente in senso ironico, una scelta simbolica e anche mediatica. In questo Papa Francesco è sicuramente all'avanguardia rispetto al suo predecessore. E niente ricevimenti, niente sprechi negli appartamenti, infatti abita in una stanza di 90 metri quadrati a Santa Marta. Ci sono anche gli eccessi che rendono ancora più ansioso il lavoro dei gendarmi. Bergoglio rifiuta le auto blindate durante le visite all'estero. Il tuo commento? Il commento tipo opinionista. Sì, esatto. No, intanto ho risposto al telefono, ma è tipo impazzito, quindi invitiamo magari a richiamare più tardi, ma magari era un trillo per dire da paura di gradimento sulle rivoluzioni di, esatto, Bergoglio. Poi. No, su quello aspetto la rivoluzione sull'IMU, quella annaggia, quella non ci ha pensato, vabbè. Poi, seconda rivoluzione, vacanze in Vaticano, chiuso Castel Gandolfo. A Castel Gandolfo, residenza per le vacanze dei papi, Bergoglio è andato per rendere omaggio al Papa Emerito Ratzinger. Trasportato in elicottero, lì si era ritirato il teologo tedesco. Quella visita ha consegnato al mondo la prima immagine di un incontro fra due papi, quasi un'allucinazione. Poi Bergoglio ha ordinato la chiusura di quella reggia pontificia, vacanze a Santa Marta, al Palazzo Pontificio riceve solo gli ospiti istituzionali. A Castel Gandolfo in elicottero c'è andato. E poi però la rivoluzione prima era tutto sulle spese. Lo so, così. Vabbè, contraddizioni in seno al clero in questo caso. Poi, i cardinali vengono dalla fine del mondo, questa è una citazione appunto delle profezie sul Papa gesuita, no? Che nel 600 appunto si diceva finirà il mondo quando un Papa arriverà al soglio pontificio. I cardinali vengono dalla fine del mondo. Ai tempi di Benedetto XVI il concistorio era governato anche dal potente segretario di Stato Tarcisio Bertone. I nuovi cardinali erano italiani, meglio se salesiani, con un passato in Piemonte o in Liguria, le diocesi governate da Bertone. Al contrario, Francesco ha elevato a principi della Chiesa i vescovi delle terre più remote o delle città più piccole. In questo modo prepara il prossimo conclave, la sua successione. Tu eri al telefono, quindi non sai che dire. Quindi passiamo alla rivoluzione successiva. Tanto ce ne sono talmente tante. Ce ne sono 10, questa è la terza. Quarta. Quei faldoni, eredità di Benedetto XVI. Il punto di contatto fra il Papa in carica e il Papa in pensione è sempre padre Georg Ganswein. Si è raccontato in passato che i due papi siano soliti vedersi a cena. Il più giovane, Bergoglio, va a trovare il più anziano nel convento dove ha deciso di vivere al riparo dagli occhi del mondo. Ma il passaggio di consegna è stato reale e formale, un pacco di documenti, la famosa inchiesta dei cardinali che Ratzinger donò a Bergoglio. Beh, bel quadretto d'auspicio, i due che vanno a cena insieme. Però sul faldone. Sul faldone, non si vabbè. Dice niente, sai qualcosa? No, non so nulla, però ci stanno tanti faldoni Wikileaks e su quelli. Ma puntini, puntini. Quinta rivoluzione. il pacere tra USA e Cuba, le abilità diplomatiche. Un papa argentino non poteva ignorare le condizioni economiche, politiche e sociali dell'America più povera e più invisa agli Stati Uniti. Con un'abilità diplomatica con pochi precedenti, anche per la capacità di tessere in segreto le trattative, Bergoglio è riuscito a debellare quelle poche miglia che dividono gli Stati Uniti a Cuba, da Cuba. Vabbè, da Cuba, e l'ha fatto coltivando un rapporto di reciproca fiducia con i fratelli Castro. E niente, lui al telefono, quindi il commento su questo dopo. Mandiamo un piccolo stacco musicale perché ci sono delle telefonate. E vabbè, ci chiamano e questo ci fa molto piacere. Ci dicevano che insomma quelli di Castel Gandolfo non è che sono proprio contenti della presenza del Papa. E no, fate bene a chiamarci, 06 49 17 50 è il nostro numero. Facciamo un po' fatica visto che siamo al momento in due, uno legge, uno commenta, però no, ci fa piacere poi quando parliamo del Papa, insomma, sbizzarritevi. Allora, commentaci sulla diplomazia, ecco. La diplomazia vaticana, ma quello io... nel senso, è un tasto molto importante su cui ho insistito molto, soprattutto nelle prime puntate che ho curato per La Messa è finita. Insomma, è da lì che bisogna partire, dai rapporti che il Vaticano in qualche modo intrattiene con molti stati. Ricordiamoci che appunto Città del Vaticano è uno stato e in quanto tale si muove con tutti i suoi dicasteri e quindi opera, diciamo, una vera e propria geopolitica vaticana che è molto molto articolata e soprattutto si sta rimodellando e ristrutturando molto in questi ultimi tempi. Io ho sempre cercato di metterlo in evidenza. C'è un parziale abbandono dell'Europa occidentale, considerata la casa del cristianesimo. Pensiamo a quanto Ratzinger aveva insistito soprattutto sull'Europa. Invece Bergoglio in qualche modo sta molto delocalizzando questa sua geopolitica, politica, chiamatela come volete, e questo si intravede da tutti i suoi viaggi che lui ha fatto, a partire dalla Corea del Sud, le Filippine, Sud America, in cui comunque c'è stata un'ovazione incredibile. E in Europa va detto, è stato in pochissimi posti, è stato nei Balcani, perché i Balcani sono un punto conflittuale, contraddittorio, tutto quello che volete, e quindi lì ha deciso di andarci. Solo ultimamente è stato nel nord Europa, ma diciamo per questioni più, diciamo, pragmatiche, di prassi, diciamo, teologica, per commemorare Lutero. Se no si guarda bene da fare certi viaggi in Europa in cui magari probabilmente con l'alto tasso di secolarizzazione che c'è magari verrebbe cagato meno, ecco. Sì, no, diciamo anche per commemorare Lutero, in vista di cosa? In vista dell'anniversario, lo dicevamo già, del cinquecentenario della Riforma, rispetto al quale le chiese protestanti uniformemente scelgono la strada dell'ecumenismo, quindi con una rilettura in tutto e per tutto revisionista delle posizioni teologiche di Lutero, volta a creare un fronte unitario cristiano di contro alle, appunto, alle derive non religiose che comunque prendono piede in Europa. Quindi appunto, ora io magari lo commentiamo un pochino più specificamente in altra sede, però è una cosa sulla quale ragionare. Per esempio, ancora un po' particolari sono i rapporti con la Russia, ancora non è stato a Mosca. Con la Cina, per esempio, ci stanno lavorando molto su questo, su un avvicinamento con la Cina, ma per il momento c'è una chiusura da parte della dirigenza cinese, giustamente, almeno qui. E veniamo alla sesta e settima rivoluzione, perché sono insieme. Guarda, io le commenterei insieme perché sono secondo me strettamente connesse, perché una riguarda l'omosessualità e l'altra la famiglia. La sesta rivoluzione è titolata così: gli omosessuali e il suo chi sono io per giudicare. Chi sono io per giudicare? Questa affermazione, per quanto scontata in una società in larga misura scevra da vincoli ideologici e religiosi, quale? Quella nostra? Sì. Ok. Avvicinato la Chiesa agli omosessuali, il Papa della Misericordia dell'apertura e del dialogo non può accettare comportamenti reazionari nel clero, anche perché per colpa di quel gruppo aggrappato ai dogmi e piegato solo alla dottrina, la Chiesa rischia di perdere voti, rischia di perdere fedeli. Infatti noi preferivamo Ratzinger, quelli del futuro, ma anche del presente, perché chiaramente ricordiamo che insomma c'è anche un peso delle adesioni, per esempio del numero di battesimi che ogni anno la Chiesa riesce ad ottenere, rispetto anche poi alla ripartizione di fondi, finanziamenti e tutta una serie di cose. Vuoi commentarla? No, ti leggo pure la settima. Le innovazioni del sinodo sulla famiglia. La prima riforma di Bergoglio è l'approccio che la Chiesa deve tenere con la famiglia. Famiglia vuol dire coppie dello stesso sesso, famiglia vuol dire insieme di persone composte da una divorziata o da un divorziato, famiglia vuol dire una donna che ha scelto o dovuto scegliere l'aborto. La Chiesa è una famiglia e per non allontanarsi dalla famiglia, dunque, la Chiesa deve saper perdonare, perché chiaramente non è la che colpa, c'è la colpa che viene perdonata, basta che poi se fa famiglia. Ovvio. Ma il sinodo non ha convinto tutti, quindi comunque sussistono delle resistenze rispetto questa comunque anche intelligente a suo modo rigiramento della questione. Commento sulle due notizie. Marketing clerico papale, può bastare? Sì. Poi passiamo alla ottava rivoluzione, l'attività internazionale e la cautela nazionale. Con la nomina di Piero Parolin alla segreteria di Stato, Bergoglio ha sottratto autonomia e rilevanza alla curia per affidarli a un diplomatico, a un nunzio apostolico. Questo è tipico della prassi gesuitica, perché chiaramente il rapporto tra papato e curia, il ruolo della curia è sempre stato un problema nella storia della Chiesa da quando è nata. Così il Vaticano è molto attivo negli scenari internazionali e molto cauto e spesso silente sugli argomenti nazionali. Vero, verissimo. Neanche la contestata legge sulle unioni civili ha mobilitato la robusta macchina vaticana. È rimasta una battaglia di una parte dei vescovi. Sì, in parte appaltata ai vescovi, è vero, anche se anche nella CEI ci sono stati dei cambiamenti. Lo stesso Avvenire è stato molto più cauto, per esempio la tendenza di Avvenire a non schierarsi in questo referendum, o comunque a comprendere tutte e due le parti, sia quelle del sì che del no. È vera questa cosa di Parolin, che tra l'altro sta operando anche una grossa riorganizzazione all'interno dei media vaticani, sta cercando di riaccorpare, sta sostanzialmente facendo una nuova riforma sui mezzi di comunicazione del Vaticano, che, lo ricordiamo, insomma, ha una potenza estrema. E io ogni volta lo ricordo anche giustamente da questi microfoni e da questa trasmissione. Radio Vaticana per molto tempo ha occupato proprio le frequenze di Radio Onda Rossa, ma fosse questo il problema, nel senso ha un raggio d'azione immenso, nel senso, se non vado errato, comunicano una roba come 50 lingue, quindi veramente in certe zone dell'Africa non c'è un cazzo, però Radio Vaticana si prende. Quindi insomma questa è la situazione. L'altro giorno c'era un servizio proprio su Media Vaticani su Rai 1, veramente piattissimo, proprio appiattito sulle posizioni vaticane in modo incredibile, però appunto metteva in rilievo come la potenza di questo mezzo della Radio Vaticana, ma anche l'Osservatore Romano viene pubblicato in diverse lingue. Sì, c'è una pratica diplomatica molto sottile, molto sotterranea, e stanno lavorando bene, purtroppo. Le ultime due notizie si connettono, cioè le ultime due rivoluzioni, scusate, si connettono a quanto stai dicendo, perché la nona è progetti in fieri, banca, curia e comunicazione. Per la riforma della curia e della comunicazione stessa del Vaticano, troppo spesso non in grado di seguire l'evoluzione tecnologica e culturale del mondo, Bergoglio ha istituito un gruppo ristretto di cardinali. Nel frattempo ha tentato di smantellare quel quacervo di affari molto opachi che si chiama IOR, l'Istituto delle Opere di Religione, Vaticana. Non mi risulta. Che anche se è improprio definirla tale, cioè Banca del Vaticano. Sì, perché teoricamente loro sono contro, vabbè. sulla curia c'è ancora tanto da cambiare. E ti leggo anche l'ultima, così le commenti insieme. I rapporti con i governi, vietato intromettersi, aspettando la fine dell'epoca di Angelo Bagnasco al vertice della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, che tu citavi prima. Bergoglio è intervenuto con le nomine, per fare un esempio, di Maurizio Zuppi a Bologna dopo Carlo Cafarra, oggi annoverato fra i contestatori della linea di Francesco, e Corrado Lorefice a Palermo. Il Papa delega i rapporti con i governi nazionali alla CEI, ma giudica anacronistiche e dannose le ingerenze del passato. Sì, in realtà questa è una pratica che c'è sempre stata all'interno del Vaticano: appaltare e delegare, diciamo, i rapporti con gli stati nazionali alle diverse conferenze episcopali nazionali. Questo è sempre successo. Certo, va registrato un maggior protagonismo sicuramente negli anni della Guerra Fredda da parte della diplomazia vaticana. Pensiamo allo stesso attivismo e protagonismo di Wojtyla, che insomma in politica estera ce lo ricordiamo tutti, l'abbraccio con un Pinochet in divisa militare, o comunque l'appoggio a tanti regimi dittatoriali nel Sud America e non solo. Questo Bergoglio pare sicuramente più cauto, e il discorso che facevamo prima, un'altra di quelle che è considerata una rivoluzione, questo suo mediazione tra USA e Cuba, sicuramente ha giovato molto al Papa in termini proprio di reputazione internazionale. Questo sicuramente gli ha dato un grosso pezzo di fiducia di molti. Che dobbiamo dire? E niente, che sono le 11:42 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi chiudiamo la rassegna stampa di oggi ricordandovi che, non so se l'avevi già detto, è uscita finalmente Scarceranda 2017.